nasci, vi, ri, fingi. Sumi, sumi, sumi. Poi, poi, poi, poi, vi. Cai, cai, cai, cai. Ri, sumi, ri. Morri, fingi, ri. Sumi, comi, comi, comi. Dormi, morri, nasci. Sumi, sumi. Vi, ri, fingi. Poi, vi. Cai. Ri, morri, fingi. Ri, comi. Dormi, morri, nasci, fingi. Ri, sumi, sumi, sumi. Corri, corri, corri, nem vi. Cai, cai, cai, cai, cai.